tutti sono qua dentro. Come ti chiami? Finger Soap. Perché non riesci a entrare? Oh! Aspetta, aspetta, sto provando. Adesso? Sì, Villa, eccolo lì. Devo Thank you.